hardcore. Che mi fa dire quel che so e non ci sto a sentire stronzi che mi dicono quello che devo fare. Sì, stronzi, come quella volta che mi volevano far cantare merda commerciale, ma non mi vendo, resto sempre uguale. Stringo forte i denti e non mi faccio incastrare, e se a volte ricado nel tempo imposto ne cerco un altro differente ad ogni costo. Sono troppo orgoglioso e non mi tiro indietro, e forse per questo che chi mi sta attorno mi porta rispetto. A chi mi vuole male glielo ci ha detto, quando vuoi sono qui che t'aspetto. E come un pusher sto nella mia zona, accecato dall'odio e con il cuore in gola. Vedo sguardi penetranti come proiettili di pistola, e non do mai confidenza a nessuna persona. Vado in giro per strada con quattro orecchie e quattro occhi, non mi fido di nessuno e non aspetto che mi fotti. Mettiti in lista perché di nemici ne ho troppi, ipocrite canaglie con la faccia da gonfiare stolti. C'è chi gelosia e invidia spaccia, c'è chi fa il doppio gioco e il volta faccia, c'è chi nei miei ricordi ha lasciato una traccia. Ma io non dimentico, sono sempre in guerra e sempre in caccia. Non cercare di mettermi lo sputo sul naso, perché quando mi scaglierò contro di te non sarà per caso. Questo è per chi continua a sparlare, state allerta adesso, sono cazzi da cagare. Sono cazzi da cagare. Sono cazzi da cagare. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene. Ascoltala con prudenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene. Ascoltala con prudenza. Una addosso all'angoscia non mi riduca ad uno straccio. Rimango duro come la roccia e freddo come il ghiaccio. E non chiedermi di fare freestyle, non te lo farò mai. Non devo dimostrare più bel cazzo a quelli pronti a mettetelo nel culo. Mettetevi in fila ad uno, non si salva nessuno. E se proprio volete il gioco duro, è ora di mostrarmi il mio dannato lato scuro. Altre soluzioni non ci stanno, con quelli che mi danno addosso con loro affanno. Si possono inculare l'ammassato con la testa in radio e in TV, ma adesso dimmi quello che vuoi dammi tu. Spero che non sia la solita merda per salire su. Non sta bene le palle, non ne posso più. Di gente che parla male alle spalle, quando ti passano davanti abbassano lo sguardo se la danno a gambe. E non ci sono scuse né perdono per chi inganna, per questi modaioli con la coda di paglia e intanto sale. E si accumula la mia rabbia, dove cazzo sta la West Coast in Italia? Sono stufo delle vostre americanate, del vostro linguaggio a stelle e strisce, delle vostre stracazzate. Stracazzate. Agita pure il tuo culo come una lurida troia, ti aspetta al varco come una carogna. Sento lontano un video la tua puzza da topo di fogna. Non ti cago, ti evito come se tu avessi la rogna. E non c'è storia, no, nessuna stramaledetta storia. Sono io il tuo figlio di puttana, sono io il tuo boia. Boia, boia, boia. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene. Ascoltala con prudenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene. Ascoltala con prudenza. E non c'è un cazzo da festeggiare, perché i giorni di festa sono spariti già da tempo dalla mia testa. Solo parole di proteste a con che contesta. Rabbia è tutto quel che resta, e non mi piego e non me ne frego. Continua a vomitare il mio odio pieno, come quando ero dinanzi noi sull'anda squarcia gola, e con i DS faccia con uova a scuola. Ti lascio lo sfregio. Sì, ti lascio lo sfregio. E se mi riattacchi per te sarà sempre peggio. Ormai non ho più nulla da perdere, non te la darò mai vinta, non mi vedrai mai cedere. Non me ne frega un cazzo di quella merda che tuo cervello si trippa delle tue storie con la tippa. Io pieni coglioni di queste puttanate, trasformate in canzonette, strappo tutte romanzate che fanno bagnare le ragazzine adolescenti, che riempiono di merda le teste di ragazzini deficienti. Mi sento lontano anni luce di fronte a voi. Io resto solo arco, non chiamatemi b-boy ma neanche sucker. E se tenti di incularmi divento il tuo più grande motherfucker. Se sono diventato così solo per colpa vostra, ascolta la sentenza che parte dalla mia costa. E spero che un giorno o l'altro vi possiate pentire, possiate imparare a vivere, adesso stai a sentire. C'è chi ancora non sa distinguere tra bene e male, c'è chi si sbaglia e si confonde col dire e il fare. Fai la cosa giusta come dice Spike Lee. Gira le tue scene d'azione senza statue come Bruce Lee. Ecco ogni vita la sua storia come nei film, dove tu sei l'attore protagonista e il destino il tuo strafottutissimo regista. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene. Ascoltala con prudenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascolta la sentenza. Di sentenza. Ascoltala bene.